Direi che sono le 7 del mattino. Eh sì, mi sa di sì. Lunedì 4 febbraio 2008, l'anno della svolta. Dagli accoglienti studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20124 Milano. L'augurio di una buona giornata e di un'ottima settimana vi arriva dalla voce distrutta. Di un uomo distrutto, un ragazzo distrutto. L'Ariele, che in compagnia di Mister Trombetta e del nostro fedele regista Spadino, sono orgogliosi di darvi il benvenuto alla 175esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Siglona! Siglona, sì, perché è una bella sigla. Ah, ne ho di cose da raccontarvi, miei cari. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. The best in town. Pane, burro e rock and roll. Attenzione, perché crea assuefazione. Girate canale immediatamente. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Cercheremo di trascinarvi per le orecchie fino alle 9 del mattino, questo l'obiettivo primigenio di questa trasmissione radiofonica, e cercheremo di accompagnarvi anche nel piccolo, se siete dei mezz'oristi, nella vostra mezz'ora di ascolto quotidiano di Pane, Burro e Rock and Roll, o se siete addirittura dei quartodoristi. Mi fa tristezza pensarvi quartodoristi, però. L'obiettivo è quello di accompagnarvi in quel quarto d'ora. Il primo saluto che faccio proprio a un quartodorista è Paolo, scrive via mail da Milano, ed è un quartodorista, ci sente fino all'almanacco del giorno lui. Paolo, ti perdi gran cose però, dovresti poi nel corso della giornata ripescare le nostre puntate su RadioRockFM.com. Però lo saluto con affetto, visto che mi allega anche fotografia, fototesseramento, come si diceva anni fa in un'altra trasmissione, del suo porco scooter col quale scorrazza per Milano con bella adesivone in bella vista di Rock FM, adesivo blu. Bravo Paolo, così spargi il verbo in giro per la metropoli. A lui il saluto e a tutti gli amici e le amiche già sintonizzate in questa prima mezz'ora. Tra poco vi do i contatti, anche se come al solito vi trovo già belli svegli. E poi scusatemi, ma sono reduce dal primo raduno surrealista di Pane, Burro e Rock and Roll. Mamma, che roba! Che roba! Iniziamo con gli Animals, che è meglio. Ne parleremo. Secondo voi abbiamo vinto oppure no? Li abbiamo stracciati, non abbiamo vinto, li abbiamo stracciati! Boom, boom, boom, boom! Gotta shoot your eye down! Take you in my arms! I'm in love with you! Love that is true! For my feet. tall. When you walk that walk and you're talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby. Animals di Boom Boom, ottimo inizio per questo stramaledetto lunedì. La nicchia vincerà, la nicchia ha già vinto, spargete la voce. Gli organi di informazione non ve lo diranno perché ci boicottano, maledetti invidiosetti. La televisione e la radio vi racconterà solo del carnevale di Viareggio, maledetti. Nessuno vi racconterà di quello che è successo a Celle Ligure, il vero carnevale italiano. Vi do le coordinate, tanto vaneggerò tutta la mattina su sta storia, quindi 335-100-7777, la linea di contatto più veloce, più diretta, numero di SMS. Non devo urlare così tanto perché mi vengono i coccoloni a me a quest'ora del mattino. Sarebbe carino svenissi un giorno sul mixer. Tu Spadino però devi tagliare. Allora, vi ho dato il numero di SMS, regola 1 per la puntata di oggi. Basta scrivere scusandovi che non siete venuti. Se non siete venuti, peggio per voi, ve lo dico subito. Vi siete persi il primo raduno surrealista di Pane, Burro e Rock and Roll. No, perché c'è una sfilza di... Ah, sarei voluto venire, ma... E io ero già lì per ma... ma c'era brutto tempo e... Dove c'era brutto tempo? Tra l'altro oggi dobbiamo fare una sviolinata a Marco Garavelli, che ha azzeccato le previsioni del tempo per la giornata di domenica in maniera veramente precisa. Vi ricordo anche la casella di posta elettronica, che è ariel@radiorockfm.com, che potete utilizzare anche voi che ci ascoltate in fuori sincro, voi che non vivete la diretta, il momento così dell'alba, del risveglio, ma che comunque ci tenete a seguire la trasmissione Pane, Burro e Rock and Roll. Sta salendo in ascensore anche il maestro Roberto Fricantoni, sì, proprio lui, anche quest'oggi ci terrà compagnia per queste due ore. Io ho una scaletta, ma non riesco nemmeno a metterla a fuoco la scaletta stamattina. Quindi sarà una puntata un po' così, come i marinai, no? Steve Miller Band, Take the Money and Run. Restate con noi, ne sentirete delle belle. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young lovers with nothing better to do. They sit around the house, get high and watch it too. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Pueblo El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Bobby Sue took the money and run. You know he knows just exactly what the facts is. He ain't gonna let those two escape justice. He makes his living off of the people's taxes. Bobby Sue, whoa, whoa, she slipped away. Billy Joe caught up to her the very next day. Maledetto lunedì! Ah, DJ Ariele, non dica così! Lei sa che il lunedì può trasformarsi in un meraviglioso inizio di settimana! Buongiorno maestro Antonio, se non ci fosse lei a portare un po' di positività a questo spazio. Ma no, l'abbiamo già fatto tante altre volte questo esperimento. Maestro, io lo so già. Una piccola spinta. Sarà un lunedì come tutti gli altri, no. Solo che sarà il 4 febbraio, ci sarà l'almanacco, le solite tiritera, me e te, te e me, io e te. Ah, te, quest'oggi io. Invece no! No, ho una perché? Grande novità. Ah, dice? Perché quest'oggi sì, io ho preparato un ode all'almanacco. Oi la la! È su un foglietto rosa, tra esatto. L'altro. Esatto, non il solito inizio con l'almanacco tradizionale, sì, ma un ode all'almanacco. Aia, è sui 25 minuti? Lei forse vuol mettere il dito sul problema della mia prolissità. No, no, la prego. Ma io non raccolgo e vado oltre. Prego. Dimostrando a tutti che la poesia sì. È fatta con qualsiasi argomento. E può che essere Fricantoni fatta. È fatto con qualsiasi argomento. Con qualsiasi argomento. Sì. Ode all'almanacco. Nell'incertezza del futuro che talvolta appare duro, regalati uno stacco, dai, ascolta l'almanacco. Certi giorni ti tormenta, ogni notizia una sentenza, e se ti fermi all'apparenza, certo, l'almanacco è turbolenza. E ti sorprende di soppiatto, variopinto e rarefatto. A me piace anche così bislacco, questa specie d'almanacco. Maestro, io sono commosso. Grazie, grazie per l'incipit di questo 4 di febbraio. Era credo, doveroso. Credo che il poema va avanti, lo proseguiremo poi nel corso delle mattine. Naturalmente, viva l'almanacco! 1789, che emozione. George Washington. Accadde proprio il 4 sì, di febbraio. Sì, sì, sì. Venne eletto all'unanimità come primo presidente degli States, al collegio elettorale statunitense. Eh vabbè, con un cognome così è chiaro. In che no? Senso? Nel senso che ti chiami Washington di cognome, sei nella capitale e quindi è doveroso, no? Iniziare questo cammino. Come con... se ci fosse Marco Roma. Esatto. Come presidente. Marco va bene, Roma. 1857 Glisso, a sì. Bonn. Glissi pure. Viene annunciata la scoperta di fossili umani. Sì. Si scoprirà poi trattare dei più antichi mai rinvenuti, quelli dell'uomo di Neanderthal. Ah. Sa perché si chiamano così? Non lo so, me lo dica lei o qualche... Lo dico io, perché furono ritrovati nella valle di Neander. Ah, sì, Germania. Avevo qualche sentore, infatti, infatti. Chiudiamo con una bella notizia sportiva, di quelle che ci piacciono a noi. Ah, sì, quella che riguarda il 4 febbraio del 1962. Esattamente, parliamo di una rivista russa, o meglio del supplemento De... Nedelia del quotidiano Izvestia. Izvestia. Il quale sostiene che il baseball, gioco simbolo degli Stati Uniti d'America, in realtà è un gioco russo. Ah, che bello come mi piacciono queste diatribe. Sì. Russo-americano. No, siamo stati noi i primi a inventarlo. No, la mazza era di Mosca. Esatto. Le palle erano di San Pietroburgo. E via di seguito. Tanto noi non lo pratichiamo ugualmente, sia che sia russo, sia che sia americano. Infatti non è un gioco molto italiano, a noi ci piace il calcio, oh yeah. Ma dice? Abbastanza. Pochino. She's just Down to you, Brian Adams. La colazione di Rock FM. Pane, burro e rock and roll. Non so veramente come affrontarla la giornata di oggi, se non che vi verrebbe veramente voglia dai vostri commenti via SMS di non dirvi nulla. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, eh? Siete persi al raduno surrealista. Però faccio un saluto al patentato 1157, ecco, uno dei nuovi patentati, uno di coloro che è riuscito ad avere la patente davvero rocker honoris causa, senza test attitudinale, ma mi sono testimoni dozzine di cowboy e dozzine di squaw che non abbiamo ceduto a nessuna tentazione. Le patenti sono state consegnate solo ed unicamente a esseri umani vestiti in maniera buffa, da cowboy o da indiani, e ci sono stati svariati tentativi di accaparrarsi patenti anche da gente in borghese, e la risposta è stata sempre ferrea: no, non si può, perché gli altri si arrabbiano. Già a voi non facciamo il test attitudinale, ecco, che sia chiaro per tutti voi altri, e che sia chiaro anche che la patente data al raduno surrealista è valida tanto quanto quella data col test attitudinale. Ci inventeremo altri raduni surrealisti e daremo altre patenti davvero rocker honoris causa. Saluto Zorro motociclista. Fuck off, ecco, lo saluto anch'io così. Da Firenze ci propongono il fumetto di Zorrock da mandare online. Io ho già un'anteprima. Alessio, non è che puoi scrivere cose così e non farcelo vedere. Spedisci subito qualcosa alle nostre mail e noi si pubblica sempre tutto, come per esempio il fumetto di Frigo e Rogna, e già qualcosa è comparso sul nostro spazio myspace.com/paneburrofm, e sempre per raccontarvi così a spizzichi bocconi cosa ho potuto vedere ieri pomeriggio. Io devo salutare Francesca, se non mi ricordo male, spero di sì, che si è presentata vestita da squaw con gabbietta contenente Frigo e Rogna. È stato veramente carino. Ho resistito alla tentazione di rubarglieli, di sottrarglieli in diretta. A proposito di Zorrock, ci connetteremo con la puntata andata in onda venerdì e la riproporremo a voi della prima ora nel corso delle prossime giornate. Forse già domani vi proporremo la prima puntata di Zorro. Stavo pensando invece dedicato a quelli che ieri non c'erano. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Pane, burro e rock and roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. Ho provato per anni a suonare la batteria, che dico per anni, per decenni, e non ho mai raggiunto nessun risultato utile perché io diventassi un batterista vero, e tutte le volte che guardo questi giovani musicisti che hanno 15 anni o 18 e ottengono risultati e sono in televisione e cantano davanti a un pubblico folto con le ragazzine che fanno loro i cori, io dico: ma perché? Probabilmente meritavo di più. Io invidio. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Iscriviti anche tu, invia un SMS al 335-100-7777 col testo "L'invidia è rock". Lamentarsi è deprimente, invidiare è rock. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Doesn't seem that long ago, three of us walking down that road, gray 55 Chevy parked in the front yard. Little Melody tagged along. Those were the best days.